Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno e il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò. Fino a quando. D'improvviso ti vedrò. Sorridenti accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciando me dirai, non ci lasceremo mai. Quando tu verrai. Dimmi quando. E baciando me dirai, non ci lasceremo mai. Non ci lasceremo mai.